Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo, per il risvolto che ha avuto su tutti i mercati finanziari, la vicenda coreana, nordcoreana, la risposta del Sud Corea, le tensioni fortissime. Allora, va detto che dopo una botta, parlo di mercati finanziari, successiva alla notizia, e dopo che l'euro si era mosso arrivando oltre la soglia di $1.2, non era così forte, la mantiene tuttora a 1.202 il rapporto di cambio euro-dollaro, che il livello non è un livello altissimo, drammatico, però è il livello più alto dal gennaio del 2015, quindi era da 2 anni e passa che non vedevamo un livello così alto dell'euro sul dollaro. Ripeto, uno poi si può ricordare di quota 1,35, 1,38, 1,40, ma insomma dal 2015, dal gennaio 2015, che non era 1,20 e 0,2, e tra l'altro il dollaro in senso stretto si appresta a chiudere quella che è in agosto la sesta flessione mensile consecutiva, è la serie più lunga, a chi ama queste classifiche e questi ragionamenti, è la serie più lunga di flessioni del dollaro da 14 anni, ossia non il livello, non il rapporto euro-dollaro, ma era 14 anni che il dollaro non si indeboliva consecutivamente per 6 mesi. Di fila. Tra l'altro, da fine febbraio il rapporto euro-dollaro ha visto il dollaro perdere circa quasi il 10% nei confronti dell'euro. Ma questa è la reazione dei mercati valutari. Vi è stata anche, come vi hanno raccontato i nostri GR24, una reazione importante dei mercati azionari. Adesso hanno un po' recuperato rispetto ai cali che si erano registrati dopo l'annuncio del lancio del missile da parte della Corea del Nord, e quindi si è avuto subito un calo di Francoforte al 2%, adesso Francoforte perde l'1,40, Parigi è arrivata a perdere l'1,60, adesso perde lo 0,80, Londra è arrivata a perdere l'1,5, adesso ha dimezzato le perdite, perde lo 0,80%, Milano su questa scia perde l'1,30%. Chi va particolarmente male? Non c'è un tema di fondo forte, comunque adesso ne parleremo, perché affronteremo la questione coreana non solo dal punto di vista geopolitico, ma anche dal punto di vista dei mercati. Dicevo, c'è un calo complessivo, facciamo prima oggi a dire i titoli che non perdono in borsa, e praticamente in questo momento non ce ne sono. Snam cede solo lo 0,20%, Italgas pure, Recordati meno 0,30%, Eni meno 0,30%. Tutto il resto perde di più, con Mediaset che perde il 4%, questo in realtà il calo di Mediaset si lega soprattutto ai conti deludenti della tedesca ProSiebenSat, meno 4%, Banco BPM, le banche, perché sappiamo che insomma, il rischio e i timori, uno va a vendere anche i titoli bancari, meno 3,31% Banco BPM, meno 3% Banca Generali, BPER meno 2,40%, Unicredit meno 2,40%, Unipol pure, UbiBanca meno 2,20%, Banca Mediolanum meno 2%, Saipem perde il 3,14%, Exor Fiat il 2,50%, Fiat Chrysler inizia a sgonfiarsi meno 2%. Su Fiat Chrysler vale la pena ricordare però quanto intanto scrive anche il Sole 24 Ore oggi. Il rally di borsa di Fiat Chrysler ha portato circa 428 milioni di euro, quasi mezzo miliardo di dollari, il valore delle varie stock option in mano al numero uno, che è Sergio Marchionne, perché lui ne ha 180 milioni come Fiat Chrysler, 140 milioni su Ferrari, 108 come Case New Holland e poi altre partecipazioni. Ora, non è che sia merito o demerito di Marchionne, anzi molti fanno notare il silenzio di Marchionne in queste settimane, in giorni in cui prima è arrivata l'ipotesi di Great Wall su una parte di Fiat, poi addirittura quindi sulla Jeep di Fiat Chrysler, sul marchio Jeep, poi come interessamento complessivo su tutto il gruppo Fiat Chrysler, poi invece altre voci su Magneti Marelli, di una cessione di Magneti Marelli, spin-off di Magneti Marelli, scusatemi, e oggi faccio notare che si fa anche un ragionamento su quelle che potrebbero essere le reazioni americane, non italiane, a un'ipotesi di conquista cinese da parte sul gruppo Fiat Chrysler, perché le autorità americane, secondo varie agenzie di stampa, starebbero intensificando i controlli sullo shopping cinese di aziende statunitensi. È chiaro che poi, insomma, questo si lega anche all'arrivo alla presidenza di Donald Trump. L'interesse di Great Wall per il marchio Jeep e quello anche di altre case automobilistiche cinesi per l'intera Fiat Chrysler hanno riportato alla ribalta i timori che settori strategici, secondo gli americani strategici, possono andare in mano cinese. Alcuni però dicono, per esempio Asia Times, che lo stesso Marchionne avrebbe usato Great Wall come specchietto per le allodole, puntando come così ballon de sé, puntando a vedere la reazione e ammorbidire la reazione americana, quindi per vedere poi se una versione che potremmo chiamare negli scacchi si chiamerebbe di arrocco, per difendere l'eventuale assalto, difendersi dall'eventuale assalto cinese. Beh, a quel punto una fusione con Hyundai. C'è chi, voglio farlo riascoltare invece, sostiene, e mi riferisco allo storico economista Giuseppe Berta, che comunque questa vicenda un risultato lo otterrà, e in questo senso è in linea con quanto scrive anche l'Asia Times, e cioè spingere forse l'amministrazione americana a essere più morbida su un'ipotesi di fusione tra Fiat Chrysler e qualche altro soggetto. Asian Times cita la coreana Hyundai. Invece Berta dice, per esempio, su General Motors, che è un'operazione che è sempre stata molto discussa e osteggiata dalla stessa GM. Però è chiaro che quando la paura fa 90 e hai il timore di essere scalato, diciamo, questa vicenda potrebbe rendere più morbida, mettiamola così, da un lato l'opposizione di General Motors, dall'altro la posizione della Casa Bianca stessa. Sentiamo Giuseppe Berta ai nostri microfoni la settimana scorsa, e poi partiamo con le altre notizie in breve, di cosa ci occuperemo oltre del Nord Corea e Sud Corea e tensioni internazionali, delle reazioni dei mercati, anche della Brexit, perché insomma c'è un'analisi molto interessante come al di là delle dichiarazioni formali sia il governo britannico che l'opposizione britannica stiano tentando, senza dichiararlo in maniera esplicita, di arrivare a una Brexit più morbido possibile, una Brexit, il meno Brexit, se mi passate il gioco di parole, il meno Brexit possibile. Poi parleremo del reddito di inclusione, perché oggi è arrivato il via libera definitivo da parte del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo che introduce il reddito di inclusione. Chiariremo anche a chi si applica e che tipo di cifre stiamo parlando. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Diffondere queste voci dell'interesse dei produttori cinesi per il marchio Jeep, per Fiat Chrysler e così via, possa magari servire a vincere le resistenze americane a quell'incontro tra General Motors e Fiat Chrysler che fin qui non si è realizzato. E non si è realizzato, sappiamo benissimo, perché per l'ostinata e intransigente posizione di Mary Barra, CEO di General Motors, che non ha mai voluto vagliare nemmeno la possibilità di un merger, di una fusione con Fiat Chrysler. Però ecco, se ci poniamo dal punto di vista non di Detroit ma di Washington, della Casa Bianca, lì sarebbe una mossa che al presidente Trump potrebbe piacere parecchio. Sì. Dunque, a chi mi scrive al 349-238-6666, guardi che lei su Marchionne non è mezza e cata una, gli ha sempre detto contro. No, vado adesso, non penso che sia così interessante per gli ascoltatori, ma vado a memoria. Elogiammo lo spirito con cui Marchionne prese in mano una Fiat che era veramente, era stata salvata a suo tempo dal prestito delle banche. Criticammo qualche anno dopo il fatto che varie promesse, progetto Fabbrica Italia e quant'altro, non si stessero realizzando, e non si capiva con quali modelli la Fiat avrebbe aggredito il mercato. Abbiamo anche recentemente commentato in maniera più che positiva tutti i dati che sono arrivati dal gruppo Fiat. Per quello che riguarda queste ipotesi, non le facciamo noi onestamente, oltre che scriverle l'Asia Times, ci sono tante altre agenzie e articoli che dicono, beh, al di là dell'offerta vera e propria, che fosse vero, che fosse solo un'ipotesi, una speculazione, quali potrebbero essere le conseguenze? E di questo si stava ragionando sul fronte, per esempio, di un ammorbidimento delle posizioni sia di GM che della Casa Bianca verso una fusione Fiat Chrysler General Motors. Della Brexit mi scrivete, ne parleremo fra un attimo. Comunque oggi il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto di essere insoddisfatto dai documenti che ha fatto pervenire il governo britannico. Li ho letti con attenzione, ma nessuno di questi mi ha davvero soddisfatto. C'è un enorme numero di questioni che resta da risolvere, non solo la questione delle frontiere con l'Irlanda del Nord, ma anche lo status dei cittadini, che deve essere più chiaro. E ancora i negoziati che appunto che sono ripresi ieri, ma ne parleremo fra un attimo, con la posizione di Angela Merkel, che ha detto che Londra deve pagare quanto deve all'Unione Europea, perché non è una multa ma è un obbligo. E ieri qualcuno mi ha criticato dicendo, ma lei ha parlato di pantano. Beh, attenzione, io non ho detto, è innegabile che in questo momento la Gran Bretagna, la classe politica britannica, non abbia una direzione chiara e netta. I laburisti sono per una Brexit più morbida possibile, ma la stessa Theresa May, uscita sconfitta dalle elezioni, si sta barcamenando, stanno cercando di salvare capre e cavoli. Non mi dite, io, uno può essere a favore della Brexit quanto vuole e ritenere che sia il migliore dei mondi possibili, per carità, ma non mi dite che questo ha semplificato la vita in Gran Bretagna. Anzi, come qualcuno scrisse in tempi non sospetti, il rischio che tutta la politica britannica si concentri adesso e venga assorbita come energie e come dibattito solo ed esclusivamente dalla Brexit è un rischio che io vedo sempre più forte. E a proposito di dichiarazioni europee, oggi a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato che serve una maggior coerenza nelle politiche economiche dell'area euro e ha detto, potrei immaginare anche un ministro delle finanze dell'economia europeo, in questo senso andando sulle parole di Schäuble riferitesi al Fondo Monetario Internazionale, ma andando anche nella direzione che ieri veniva messa in evidenza in questo programma, ossia di un'Angela Merkel e di una Germania che probabilmente e anche auspicabilmente dopo il voto tedesco potrà affrontare con maggiore serenità, senza avere il problema dell'opinione pubblica che va a votare, il tema di che cosa fare di questa Europa, se arrivare a una maggiore coesione, perché così com'è impostata non funziona, a partire dall'idea di un ministro europeo delle politiche finanziarie ed economiche. E la Merkel ha anche commentato le polemiche e le critiche che da più parti le arrivano, anche da organismi internazionali, sull'eccesso di surplus commerciale tedesco. Cioè la Germania ha un avanzo commerciale enorme che continua a crescere, che è andato a record, e da più parti si dice, beh, non è possibile però che tu con questi avanzi non spenda, non faccia investimenti, e punti un deficit zero. Beh, insomma, era come chiedere all'oste come era il vino. Ha detto Angela Merkel, non vedo il surplus commerciale tedesco in modo così drammatico, e poi comunque noi non possiamo influenzare l'andamento del surplus. È vero, ha fatto un altro record a settembre, 18 miliardi la differenza tra l'export e le importazioni tedesche. È vero, e infatti nessuno dice che devi esportare di meno. Il passaggio successivo che la Merkel non cita è che un paese che ha una grandissima entrata sul fronte commerciale e continua a non spendere sugli investimenti interni va a squilibrare quello che è il mercato unico europeo tanto quanto i paesi che hanno deficit eccessivi, ma non lo dice, cioè, il sottoscritto lo dice il trattato di Maastricht, che prevedeva di non avere deficit superiore al 3% e comunque in riduzione, ma neanche avanzi eccessivi di bilancio. Insomma, non puoi avere il fratello che risparmia e l'altro che, pur avendo i soldi, non spende. Ancora, per quello che riguarda, vedo messaggi sul reddito di inclusione, ne parliamo, è un assegno mensile di importo variabile, comunque ne parleremo, dai 190 fino ai 485 euro in caso di famiglie molto numerose, durata massima di 18 mesi, è interessata una platea di circa 400.000 nuclei familiari, pari a quasi 2 milioni di persone, prevista una dotazione di 2 miliardi di euro. Qualcuno mi chiede il raffronto col reddito di cittadinanza proposto dai 5 Stelle. Beh, è un'altra cosa, è una cosa completamente diversa. Quello prevede un reddito minimo di 700 euro e avrebbe dei costi, qui non si capisce, insomma, le ultime stime sono tra i 15 e i 20 miliardi l'anno, il che non vuol dire, lo dico prima che scriviate, che non si possono trovare 15-20 miliardi l'anno. Tutto si può fare, basta essere chiari che se vanno lì non vanno da un'altra parte. Comunque è la prima volta che l'Italia si dota di uno strumento, diciamo, contro la povertà, partendo dai nuclei familiari. Tra l'altro, poi spiegheremo le caratteristiche che deve avere il nucleo familiare per accedere al reddito di inclusione. Segnalo che gli ultimi dati Istat vedono dati relativi alla povertà assoluta in Italia, vedono coinvolti il 6% delle famiglie residenti, pari a 4.600.000 individui. Rispetto al 2014 sono peggiorate soprattutto le condizioni dei nuclei con quattro componenti, ed erano comunque nel 2014 8.300.000 le persone coinvolte complessivamente. Adesso un'ultima notizia che la dice lunga su quella che noi chiamiamo asimmetria tra dati sulla disoccupazione giovanile e non solo, e segnalazioni che non arrivano da tutta Italia, arrivano soprattutto dal nord, dal centro-nord Italia, di imprese che hanno una difficoltà enorme a trovare personale che cercano. Articoli anche durante l'estate di casi nel Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia-Romagna. È chiaro che sono le regioni che in questo momento hanno già dei tassi di recupero rispetto alla crisi e di disoccupazione molto più basse, ma insomma, secondo la rilevazione di Confartigianato, tra luglio e settembre le imprese prevedono 117.560 assunzioni di personale con titoli di studio legati all'innovazione. Perché? Perché vogliono intercettare i benefici fiscali, a mio avviso più che giusti, che il governo ha messo in piedi con gli iperammortamenti e i superammortamenti, quindi 140% o 240% dell'investimento per il progetto Industria 4.0, cioè se tu investi per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, innovazione digitale, scusatemi, della tua impresa. Nello specifico, gli imprenditori sono a caccia di 32.570 diplomati in meccanica, meccatronica ed energia, 13.300 diplomati in elettronica ed elettrotecnica e poi altre 34.000 domande per la qualifica o il diploma professionale a 4 anni in meccanica, e inoltre quasi 10.000 richieste di ingegneri elettronici, 8.500 di ingegneri industriali. Hanno, lo dice la Confartigianato, che quindi rappresenta anche le piccole, anzi soprattutto le piccole e piccolissime imprese, hanno difficoltà a trovare la manodopera necessaria. L'unica strada per colmare il gap tra le imprese che cercano manodopera e i giovani in cerca di lavoro è il contratto di apprendistato, che ha visto tra maggio 2016 e maggio 2017 una crescita del 27% con 260.000 apprendisti assunti. È chiaro che adesso qualcuno mi scrive la solita cavolata: non le trovano perché non pagano, non perché non ci siano le persone, cominciano a pagare. Insomma, sì, sicuramente c'è una pressione sui salari. Io dico sempre che piuttosto che non avere un lavoro è meglio avere un lavoro. Dopodiché, che l'unico motivo sia la pressione salariale, non ne sono convinto, perché delle volte mancano proprio le professionalità, e professionalità che, visto a maggior ragione se parli di laurea o anche di un percorso di diploma, non crei da un anno all'altro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo col primo tema dopo le notizie in breve e andiamo appunto a capire che cosa non sia successo in Corea, lo abbiamo detto in tutti i modi, ma che cosa potrebbe capitare a questo punto. Allora, è inutile a mio avviso ripetere quello che è accaduto questa mattina. La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile che ha sorvolato il Giappone percorrendo 2700 km prima di andare in mare. Il missile balistico a medio raggio lanciato oggi dalla Corea del Nord è il primo disegnato per trasportare una testata nucleare. Reazione della Corea del Sud: Seul ha sganciato 8 bombe vicino al confine. Trump ha detto tutte le opzioni sono sul tavolo. Mosca dice è chiaro a tutti che l'opzione delle sanzioni alla Corea del Nord si è ormai esaurita. ONU dica un chiaro no a un intervento militare. La Corea del Nord avvisa gli Stati Uniti. Vi sarebbero conseguenze catastrofiche dalla nostra reazione. A mio avviso la domanda, spero di non essere troppo banale, è: siamo ancora di fronte alla cosiddetta prova muscolare, prova di forza, braccio di ferro, io ho la gittata, posso arrivare fino lì, insomma la prova muscolare, che però è ancora tattico, addirittura pretattica, o siamo di fronte a una lenta ma pericolosissima escalation, ossia un percorso che si sta avviando, che poi diventa difficile, se non con soluzioni estreme e interventi anche diplomatici estremi risolvere. Giro la domanda, mi rendo conto non facile, a Stefano Carrer, che è in collegamento con noi da Tokyo, corrispondente Sole 24 ore. Buonasera Stefano. Sì, buonasera. Buonanotte, scusami anche per l'ora. Buonanotte. La sensazione in Asia è che si sia ancora di fronte a tatticismi, per quanto pesantissimi, o che qui si sia imboccata invece una strada che assomiglia più all'escalation? Ah, diciamo, ci sono vari esperti che insistono nel ritenere che l'obiettivo ultimo del dittatore nordcoreano Kim Jong-un sia quello di arrivare a un negoziato, chiaramente da posizione di forza. Ma certo, dopo il lancio del missile di questa mattina, che ha sorvolato lo spazio aereo giapponese, certo la situazione è molto più complessa e difficile. Io vi voglio richiamare, pensate voi, essere svegliati, come è successo oggi a milioni di cittadini giapponesi dell'Hokkaido, del Giappone settentrionale, con le sirene che suonano e sul telefonino le autorità ti avvertono: mettiti al sicuro, mettiti diciamo in cantino o comunque in una struttura solida, perché i coreani hanno lanciato un missile verso il nostro spazio aereo. Certo, qui qualcuno può anche considerare che c'è stata una certa componente di allarmismo, perché poi lo stesso Ministero della Difesa giapponese ha detto che non è mai stato dato l'ordine di intercettare il missile, perché la traiettoria si vedeva chiaramente che avrebbe sorvolato lo spazio aereo, ma che non sarebbe caduta nel territorio. Però insomma, provate a immaginare l'allarme diffuso tra la popolazione e diciamo il governo, che ovviamente si fa interprete di questa situazione col premier Shinzo Abe, che ha detto che c'è una minaccia senza precedenti per il paese. Non è la prima volta, della verità, che ci sono missili nordcoreani hanno sorvolato lo spazio aereo giapponese, ma come ha detto il neo ministro degli esteri Taro Kono, qui il problema è che appunto ci sono indicazioni che la Corea del Nord ha fatto progressi nella miniaturizzazione di testate nucleari, che quindi montabili su missili, e inoltre i propulsori che lanciano questi missili sono più potenti e sofisticati. Certo, quando un paese è nucleare, ormai nucleare, le opzioni sono limitate, quindi anche nella conversazione di 40 minuti che c'è stata tra Abe il presidente americano Donald Trump, certo hanno concordato che non è certo il momento del dialogo, per cui chi dice vabbè, ma l'obiettivo ultimo del dittatore è il negoziato, niente, così facendo in realtà si preclude la strada del negoziato. Però diciamo è chiaro che come è sempre successo c'è una riunione d'emergenza convocata, richiesta da Corea del Nord, Stati Uniti e Giappone, del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, c'è un appello generale per una moltiplicazione delle pressioni e delle sanzioni internazionali, ma certo per arrivare alla guerra contro un paese ormai dotato di armamento nucleare è tutto un altro discorso. Se vogliamo vedere la reazione dei mercati finanziari, certo molti investitori hanno così spostato risorse su asset considerati come bene rifugio, ma non si può dire che la reazione sia stata veramente drammatica. Cioè, sì, adesso infatti hanno un po' ritracciato e ringrazio anche Claudia Segre, presidente del Global Thinking Foundation, segretario generale di Alcyon Forex. Buonasera dottoressa. Buonasera. Con cui parleremo dopo il meteo e la pubblicità delle preoccupazioni o dei pretesti dei mercati finanziari. Però vorrei capire ancora una cosa con Stefano Carrere. Tu dicevi giustamente, per ora sembra ancora un approccio teso ad arrivare a un tavolo delle trattative in una posizione di forza e non, diciamo, sotto accerchiamento. Il problema, Stefano, è che io personalmente, penso anche altri ascoltatori, non vediamo un barlume di tavolo delle trattative, cioè non c'è, io potrei capire il tatticismo, la pretattica per dire poi ci sediamo a un tavolo e ognuno ha delle posizioni di forza e ha messo le sue pedine. Non capisco se forse abbiamo informazioni chiaramente parziali anche noi, se vi sia sotto traccia un tentativo di arrivare per evitare l'escalation, appunto, a un tavolo delle trattative, oppure si vada in ordine sparso. Diciamo, il problema è l'atteggiamento nordcoreano, cioè praticamente è allo stesso tempo razionale e paranoico, nel senso che io parlavo con degli esperti oggi, mi dicevano spesso, molto spesso i nordcoreani citano l'esempio della Libia, cioè Gheddafi si era fidato delle promesse degli occidentali di normalizzazione di rapporti in cambio di rinuncia allo sviluppo di armi di distruzione di massa e sappiamo com'è finita. Quindi è un po' un gatto che si morde la coda. Loro sempre quando fanno le esercitazioni annuali congiunte, le forze militari sudcoreane e americane, come è in corso in questi giorni, manifestano la loro rabbia e la loro reazione perché li considerano prove di invasione. E quindi paradossalmente il fatto stesso che appunto oggi, allora, come reazione, lo stesso presidente Moon Jae-in, che è considerato una colomba, ma ha ordinato questo upgrading delle esercitazioni militari, per cui esattamente far bombardare dai caccia delle postazioni di artiglieria, che sarebbe proprio, diciamo, la cosa che si dovrebbe fare in caso di invasione, perché si tratta, cioè Seul è anche sotto l'artiglieria, il tiro dell'artiglieria nordcoreana, è un po' un gatto che si morde la coda, per cui la paranoia, ma in un certo senso razionale, nel senso di un regime che pone come primo punto la sua sopravvivenza e quindi l'eludere le minacce di regime change, di cambiamento di regime, come è successo, è ovvio che deve dimostrare dal suo punto di vista, ed è una cosa razionale, di essere forte, di essere in grado in caso di attacco di provocare rappresaglie devastanti che quindi diciamo scoraggino l'eventuale aggressore. Ecco, è chiaro che qui il problema è che la politica americana anche in questo momento è un po' ambigua, mentre prima era chiara, adesso non si capisce bene cosa succede. No, anche perché sono circolate voci anche di un due personaggi. Sono circolate anche voci di una possibile dimissione del segretario di Stato Tillerson, per cui la politica americana, la staff di Obama è sempre, se mi passate il termine, più incasinato. Però per chiudere, Stefano, notiamo anche oggi un certo silenzio, per essere eufemistici, di Pechino, che sappiamo è lo storico alleato, oltre che fornitore militare della Corea del Nord, e anche la posizione un po' pilatesca, un po' ambigua di Mosca, che dice insomma le sanzioni, l'opzione sanzioni ormai si è esaurita, deve passare l'ONU con una risoluzione che dica chiaramente no alla soluzione militare, no a sanzioni unilaterali. Per cui non è che vada a criticare nettamente chi lancia i missili, cioè verso il Mar del Giappone. Diciamo, siamo al solito punto. Dal punto di vista della Cina, Se crollasse il regime nordcoreano, cosa succede? Che l'unificazione della penisola coreana sarebbe sotto l'egida del Sud, che è alleata degli Stati Uniti. La domanda è: gli Stati Uniti se ne andranno una volta che non ci sarà più, diciamo, non ci sarebbe più il motivo, la giustificazione, certo, della loro presenza, cioè la protezione del Sud? Non è affatto chiaro, anzi potrebbe verificarsi il fatto che le truppe americane di terra sarebbero al confine cinese, cosa che Mao ha rischiato l'olocausto atomico quando ancora la Cina non aveva l'atomica, inviando a morire 1 milione di cinesi nella guerra di Corea, no? Per cui assolutamente la Cina non vuole neanche immaginare l'idea di truppe di terra americane ai suoi confini, e quindi tutto sommato sì, è d'accordo nel fare pressioni su Pyongyang, perché a nessuno piace che un vicino di casa abbia l'arma atomica, specie se è imprevedibile, se è un po' così. Però allo stesso tempo, tutto sommato, una situazione in cui il regime, diciamo, esiste e non crolla, fa comodo, o comunque è una soluzione migliore di qualsiasi altra soluzione possibile per vari attori della politica internazionale. Allora, grazie Stefano Carrer, in collegamento da Tokyo. Ti lasciamo andare a dormire, Stefano. Dottoressa Segre, le chiedo ancora 2 minuti di pazienza o la pubblicità, e poi la reazione dei mercati, che come diceva Carrer è stata lì per lì brusca, cali intorno al 2%, l'euro sopra 1,20, non capitava da 2 anni a questa parte, poi hanno un po' ritracciato. Banalmente vorrei capire se è una scusa, un pretesto in assenza di grandi spunti, o invece soprattutto dalla parte asiatica e area dollaro si iniziano a fare ragionamenti più preoccupati. Dopo il meteo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. ...17:41, di nuovo in diretta. Allora, dottoressa Segre, venendo ai mercati, la domanda è molto semplice: è stato un pretesto perché era un po' di giorni, erano alcuni giorni che mancavano grandi spunti in borsa, se non il rapporto di cambio euro-dollaro, o c'è invece sul fronte asiatico e dell'area dollaro in generale una seria preoccupazione, a cui si lega anche qualche, insomma, dubbio sulla capacità dell'amministrazione Trump di gestire la vicenda? Ma direi che per un 80% siamo di fronte a un ottimo pretesto, in un momento ancora i volumi non sono tornati a regime per poter permettere a molti fondi di rientrare, soprattutto sui mercati azionari, a fronte di un ribilanciamento dell'andamento del rapporto tra euro e dollaro, legato più a questioni politiche americane che non all'attuale tensione geopolitica. Sicuramente questa tensione relativa ai lanci dei missili nordcoreani ha creato tecnicamente delle rotture importanti sul livello di dollaro, che dell'oro, che è andato fino a 1317, e chiaramente anche per quanto riguarda l'euro-dollaro, che ha rotto la media 200 giorni. Però siamo di fronte veramente a una situazione dove un riposizionamento del mercato in questo momento sta favorendo i governativi, però ha permesso ai fondi. Quindi i titoli di Stato sostanzialmente. Sì, infatti i titoli di Stato vedono nuovi minimi sui rendimenti decennali, dal Treasury al Bund fino al nostro BTP peraltro, quindi direi che in questo momento sono quelli favoriti, mentre invece divise come il won coreano fino alla sterlina continuano a rimanere sui minimi d'annata. Ecco, in questo senso, cioè immaginando che poi si trovi lei una quadra che si possa ricondurre, non ce lo spieghiamo chiaramente, non certo un'escalation, lei ritiene che poi, come dite in gergo, i mercati ritracceranno, cioè una volta capito che questo era solo un elemento speculativo, torneranno sulle posizioni precedenti, oppure sarà più forte la spinta speculativa in assenza di altre notizie? Perché noi ieri commentavamo il nulla detto dei banchieri centrali a Jackson Hole, che però sì, uno può specularci quanto vuole, ma non è proprio una di quelle notizie che aprono la strada a arbitraggi speculativi. No, infatti qui l'appuntamento è per il prossimo 7 settembre, quindi con la revisione dei dati sull'inflazione BCE e su un possibile discorso di apertura di Draghi per nuove manovre sul quantitative easing a partire di ottobre. Però di fatto diciamo che da dopo il G20 di luglio di Amburgo, questa questione delle sanzioni nei confronti della Nord Corea che si sono concretizzate a inizio agosto sono diventate un ulteriore motivo di discussione tra Cina e America su una guerra commerciale che è stata solo evitata grazie al sfioramento dello stratega Bannon. Quindi diciamo c'è molto di più sul tappeto delle follie del leader nordcoreano che non è riuscito a spuntare coi cinesi contratti migliori e percentuali migliori sulle esportazioni e sul rapporto commerciale con la Cina. Grazie, grazie anche alla Presidente della Global Thinking Foundation e Segretaria Generale dell'Assium Forex, Claudia Segre. Andiamo adesso sulla borsa e sulla chiusura di borsa. Vedo nel frattempo molti messaggi al 349-238-6666 sul dato che citavo della Confartigianato, le imprese che stanno cercando 120.000 quasi tecnici in questi tre mesi per beneficiare poi dei bonus, o meglio dei vantaggi fiscali di iperammortamento e superammortamento con il progetto Industria 4.0. Molti mi stanno scrivendo: ma è perché ci vada lei a lavorare da laureato a 500-800 euro al mese, sono paghe da fame. Allora, io l'abbiamo raccontato molte volte, che ci sia stata una pressione sui salari è innegabile. Qualcuno mi scrive: ecco, per l'unico modo andare all'estero. Infatti, se uno ottiene un lavoro all'estero perché è pagato meglio, andrà all'estero. Detto questo, però, vorrei anche essere chiaro: cioè, se l'impresa ha bisogno per fare un investimento e sfruttare gli ammortamenti al 140 o al 240%, sfruttare il vantaggio fiscale al 140-240%, ha bisogno di questi diplomati in elettrotecnica, in elettronica e in meccanica, perché in meccanotronica e quant'altro. Se veramente ne hai bisogno e nessuno ti arriva per 800, la legge mercato dovrebbe dire che aumenti un po' l'offerta, oppure lo stesso ha ricevuto un'offerta migliore, tu se ci tieni aumenti ancora di più l'offerta. Quindi delle due l'una: o non le stanno cercando in maniera seria, perché se tu, è ovvio che non puoi pagarlo qualunque cifra, però la legge mercato, se vedi che ti manca quell'addetto e che l'azienda concorrente lo vuole portare via, aumenti la tua offerta. Quindi se questo non avviene vuol dire che tanto questa posizione non ci tenevi, oppure possiamo anche accettare che in questi casi manchi veramente la specializzazione, non sia solo un problema di quanto offri. Per cui, prima di dire che è solo, io lo so benissimo che c'è una pressione sui salari, ma per queste categorie io non so quanto abbiano offerto onestamente, perché gli 800 euro al mese so per certo, i 500 euro al mese so per certo che vengono dati per esempio degli studi di avvocato, di commercialista, ai praticanti o ai finti stage, quello lo so per certo. Non so se le imprese che stanno cercando addetti alla meccatronica, all'elettronica, all'elettrotecnica offrono così poco e non abbiano mai rilanciato, oppure abbiano offerto un salario più accettabile e non abbiano comunque trovato un diplomato o un laureato. Comunque andiamo sul traffico e poi la borsa. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. Soy el fuego que... Allora, della borsa molto abbiamo detto: meno 1,46% alla fine Milano, meno 0,95 Parigi, meno 1,50 Francoforte, meno 0,90 Londra, invariata adesso l'America, a segnalare che insomma la grossa tensione iniziale è in buona parte rientrata. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo già raccontato di tutti i titoli in calo, praticamente oggi sul listino si è colta l'occasione, il migliore Eni, che perde solo lo 0,15%. Vorrei commentare le banche, l'abbiamo commentato, il titolo però Mediaset, perché qui c'è un caso che non va solo sulla reazione difensiva, appunto, che raccontava prima Claudia Segre, titoli di Stato, valute più forti, oro, e quindi poi si va a vendere magari i bancari, cosa che puntualmente è successo. E su Mediaset i temi sono anche altri, -3,70% nel finale. Sì, Mediaset ha scontato proprio la debolezza generale del settore media in tutta Europa e infatti il sottoindice del comparto ha perso quasi il 2%, qui il tema di giornata è la tedesca ProSiebenSat che sul finale è scesa di quasi il 14%, anzi più del 14%, perdendo nel corso della seduta anche oltre il 15% dopo aver annunciato i conti trimestrali e soprattutto aver corretto al ribasso le prospettive sulla raccolta pubblicitaria e dell'intero 2017, naturalmente un termometro molto importante per il mercato dei media che ha trascinato al ribasso l'intero settore. Inoltre Mediaset ha scontato il -7% della controllata spagnola Mediaset Spagna a Madrid, che a cui è venuto a mancare il sostegno del piano di buyback, quindi di riacquisto di azioni proprie, che si è concluso ieri. Quindi questi due fattori hanno pesato sul titolo della società italiana. Allora, adesso andiamo invece al reddito di inclusione. Volevo dare i migliori e peggiori della seduta. I grandi viaggi più 6,14, safe bag più 4, Elica più 3,70%. Fronte opposto invece ProSiebenSat Media appunto -16%, Banca Intermobiliare -9,40%, Health Italia -9%, come Invest Poligrafica San Faustino -5%. L'euro come l'euro non chiude, nel senso che i mercati valutari vivono anche la parte atlantica e poi pacifica, però l'euro in questo momento com'è è a 1,20-1,25, quindi sempre sui massimi dal gennaio del 2015. Nel ringraziare Paolo Paronetto faccio un appello agli ascoltatori, siccome mi stanno scrivendo in molti dicendo che i dati diffusi da Confartigianato in realtà ci sarebbero i diplomati e i laureati ma le cifre sono proposte sono da fame o sono bassissime, altri mi dicono guardi che invece per la meccatronica noi offriamo per uno dal 1800-2000 il doppio di quanto lei cita. Qualche imprenditore che sta cercando, lo ripeterò anche domani l'appello, che sta cercando diplomati, laureati per appunto utilizzare, fare gli investimenti Industria 4.0 e beneficiare di iperammortamenti e superammortamenti, ci può scrivere, la buona fede la diamo per scontata, e dire quanto è disposto a offrire, così capiamo, indicando anche la regione dove opera o la provincia dove opera, così capiamo anche se esista una cifra di un più o meno condivisibile, così per curiosità mia, non è che posso chiamare tutte le imprese e chiedere e far finta di essere un diplomato in meccatronica. Andiamo invece sull'ultimo tema e mi riferisco a Via Libera, ne abbiamo già parlato, però è importante ricordarlo, Via Libera al reddito di inclusione del governo. O meglio, via libera del governo al reddito di inclusione, perché via libera al reddito di inclusione del governo sembra che diamo reddito di inclusione ai nostri ministri. Banale la domanda per Marco Rogari del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera, bentornato. Buonasera agli ascoltatori. Dunque, abbiamo capito che varrà, si concentra sul a un principio di quoziente familiare, cioè si concentra anche soprattutto sulle famiglie che hanno figli a carico e in particolar modo poi su quelle che hanno dai 3 ai 4 figli a carico. Chi potrà beneficiare, non solo quelle, cioè anche, della misura e quanto deve essere l'ISE e poi soprattutto come cambia a seconda dei figli a carico e cosa cambia se ci sono figli minorenni, disabili, donne in stato di gravidanza, disoccupati. Allora, la platea è stata stimata dal governo in 400.000 famiglie che equivarrebbero a circa 1.800.000 persone e sarebbero tutte quelle che sono con un reddito ISE sotto i 6.000 euro annui e che ovviamente non hanno un patrimonio immobiliare al di là della casa di abitazione. Questo diciamo è il primo paletto. Poi, come si stava dicendo, ci sono degli altri vincoli sulla falsariga del quoziente familiare, nel senso che per un solo componente di un nucleo sotto il reddito di cui abbiamo parlato, l'assegno sarebbe di circa 190 euro mensili, è un assegno che potrà essere corrisposto per 18 mesi continuativamente, mentre più aumenta il nucleo e più si arriva a quello che è l'importo attuale della pensione sociale che viene corrisposta agli over 65 che sono senza reddito, cioè circa 485-490 euro. In una prima fase, come stavate dicendo, sarà data la priorità ovviamente alle famiglie che hanno 3 o 4 bambini minorenni soprattutto, oppure che hanno nel nucleo disabili o donne in stato di gravidanza o anche disoccupati over 55. Allora, e questo a questo punto è legge null. Qualcuno mi continua a chiedere sul reddito di cittadinanza, che è una misura completamente diversa, l'abbiamo già detto prima, ossia prevede invece di dare di avere un reddito fisso, non di inclusione, quindi non dedicato alle fasce necessariamente più deboli, e in questo caso anche più deboli da un punto di vista del nucleo familiare. Il reddito di cittadinanza proposto dai 5 Stelle prevede un reddito minimo di 780 euro a tutti i cittadini, con però, è vero, anche l'obbligo di formarsi, non è che tu lo tenga e basta. Il problema è il costo, perché tutti gli stimi che abbiamo visto parlano di un costo tra i 15 e i 20 miliardi. Intanto comunque, nel ringraziare Marco Rogari, spiego ad alcuni ascoltatori, non ce la facciamo a fare oggi la Brexit, tanto il tema... Le trattative sono trattative e i documenti di queste trattative sono ripartite ieri, le reazioni le avremo anche domani. Domani prometto che parleremo anche di Brexit. Stanno arrivando anche alcuni dati su quanto prendono. Allora, un laureato in elettronica, 1700 euro mensili, netti spero, e ho trovato ad un mese dalla laurea, quindi posso confermare i dati da lei letti, va bene. Però non me ne basta uno, invito imprenditori e dipendenti a scrivere quanto gli viene offerto in queste categorie specifiche per capire se poi vi sia realmente un incrocio domanda offerta, oppure si lamentino gli imprenditori ma non offrono abbastanza, oppure invece abbiano ragione gli imprenditori a dire che non c'è abbastanza offerta e quindi il ragionamento non è solo, diciamo, assolutorio e giustificativo nei confronti di chi questi lavori non li prende. Noi ci risentiamo domani e daremo conto anche delle mail, degli WhatsApp, degli SMS che arrivano. Intanto, da Sebastiano Barisoni, vi auguro una buona serata. Vi lascio al nostro GR24. Radio 24. Libera la voglia di fare.